Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo tornati noi di 451 intersezioni ogni giovedì notte dalla mezzanotte circa fino all'una e mezza ormai, perché stiamo chiudendo come programma radiofonico di solito nelle ultime puntate addirittura fino all'una e mezza e anche oltre, come la scorsa puntata dedicata a Pierre Boulez, grande compositore di musica contemporanea e non solo, uno dei maestri del Novecento, scomparso nei primi giorni di gennaio. 451 intersezioni, in particolare Elisio Scarpa vi saluta, vi auguro una buona nottata, una buona serata in compagnia delle musiche di 451 intersezioni. Ricordo sempre, come faccio all'inizio della trasmissione quasi ogni puntata, il nostro blog No Blog, dove potrete trovare le informazioni del nostro network 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete tutte le informazioni relative alle ultime puntate, le puntate anche passate, trapassate in tutti i sensi del nostro ormai quindicinale, potremmo dire, anche se sbagliato dal punto di vista tecnico, insomma 15 anni che siamo in pista a Bologna radiofonicamente come network 451, oltre a 451 intersezioni che va in onda sempre giovedì, ogni giovedì su Radio Città Fujiko dalle mezzanotte all'una, una e mezza circa. Ricordo ovviamente la puntata gemella, compagna, oserei dire che è più bello ancora, condotta dall'amico e compagno Max Macchia, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, che va in onda invece ogni mercoledì dal 23 fino all'una circa. Infatti ieri è ripartito il buon Max con la sua ottima popular, dunque bene, ben rientrato, dunque lo saluto Max, rientrato in trasmissione, ha aperto con la sua puntata di ieri l'anno 2016 per quanto riguarda 451 frammenti sonori. Noi di 451 intersezioni, ricordo che c'è già il podcast sul blog dell'ultima puntata, cioè la scorsa puntata di giovedì dedicata a Pierre Boulez, una puntata che è arrivata quasi a 2 ore, ma ci voleva, insomma, anche poco rispetto a questo grandissimo compositore, ma sicuramente sia io che Max nei due spazi cureremo qualcos'altro nel corso dell'anno in ricordo del grande compositore francese scomparso proprio in questo mese di gennaio. Invece stasera 451 intersezioni, dato che siamo in un clima, insomma, un 2016 che è iniziato in maniera abbastanza inquietante e insomma ci sono degli spettri che si aggirano in Europa in tutti i sensi, ma spettri non quelli che vorremmo noi, non il comunismo e non la liberazione dalla schiavitù del lavoro e dal capitalismo, ma purtroppo tendenze sempre più destroidi, nazistoidi, fascistoidi nei vari paesi. Oggi c'era addirittura un raduno tra leghisti e lepenisti del Front National, dunque cose abbastanza inquietanti, ma ci sono continuamente iniziative fascistoide in tutta Italia, ovviamente contro la questione profughi, ma non solo, perché adesso si sta mischiando anche la faccenda legata all'unione civile, ai diritti di tutto il mondo LGBT, e ovviamente in tutto questo c'è sempre la cappa pesante della situazione, guerra sì, guerra no, bombardamenti, si sa veramente molto poco di quello che sta succedendo nei paesi medio orientali, e in più ovviamente la questione profughi che sta adesso colpendo in maniera pesante. Ci sono stati alcuni paesi, l'incredibile paese come la Svezia, che è sempre stato considerato una delle nazioni più accoglienti e più aperte rispetto alla questione immigrazione, che sembra, le ultime uscite proprio ufficiali, voler addirittura espellere 80.000 profughi. Io non capisco neanche come possono fare una cosa di questo genere. Comunque, insomma, un clima abbastanza pesante. In Italia c'è sempre di più repressione in tutti i settori, sia quello sociale, la casa. A Bologna ci sono stati molti episodi continuativi e pesanti sulla questione dell'emergenza sfratti, emergenza abitativa, questioni appunto legate al bisogno primario della casa, oltre alla questione lavoro, che ovviamente viene continuamente accerchiata e bombardata in tutte le sue forme di diritti, nella forma più totale, più bieca del capitalismo, più schiavista. Ricordo che ci sono stati sgomberi, in particolar modo anche all'istituto Beretta, che alla fine è stato sgomberato, autosgomberato dagli occupanti per non rischiare, essendoci state famiglie e bambini, cose più pesanti con la polizia, insomma un clima abbastanza brutto verso le elezioni amministrative di Bologna che arriveranno tra qualche mese, e chissà che cavolo ci troveremo di mezzo tra i candidati, insomma aspettiamoci tutto il trash possibile immaginabile. Bene, in tutto questo quadro cosa ho voluto fare? Ho voluto fare stasera una puntata dedicata alla questione appunto del lavoro e anche l'alienazione legata a questo culto, a questa ideologia che viene sempre propagandata, soprattutto dopo l'attacco dai lavoratori pubblici ai cosiddetti fannulloni, per cui il culto del lavoro, bisogna lavorare perché etica del lavoro, creiamo la nostra vita, creiamo la nostra identità. Bene, andiamo a riprenderci qualcosa che qualcuno diceva già in passato, soprattutto nel movimento musicale della scena industriale, già degli anni 70-80, proprio l'elemento dell'alienazione, l'ossessività, la schiavitù, la marzialità, l'elemento proprio quasi da campo di concentramento, soprattutto legata alla fabbrica, alla dimensione fabbricista, anche se il movimento industriale nasceva a fine anni 70 già su un territorio quasi post-industriale o comunque post-fordista, legato proprio alla distruzione, allo smantellamento graduale dell'operaio massa e della fabbrica massa, e dunque verso la frammentazione più totale. Però rimaneva l'elemento ovviamente industriale, in questo senso riprodotto a livello sonoro, a livello anche simbolico, nelle performance, nei collettivi, nei progetti che venivano portati avanti alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, soprattutto in Inghilterra, ma non solo, perché anche in altri paesi europei, anche in parte in America, ma anche proprio su questo voglio andare a cadere, in Australia. Bene, stasera la puntata sarà intitolata Fabbriche sonore, e dunque tracce industriali ma anche rumorismi dagli anni 80 fino agli anni 90, perché ascolteremo anche dei progetti degli anni 90 e inizio anni 0 che riprendono ovviamente il linguaggio industriale e noise e rumorista, ma troveremo dentro anche questi progetti elementi tribali, ancestrali, legati appunto a delle dimensioni quasi anche in alcuni momenti con degli echi e delle melodie medio orientali dentro un contenitore metallico e appunto quasi sottocutaneo in termini proprio dell'aspetto della penetrazione sonora. E andiamo a pescare in terra d'Australia, perché questo progetto nacque proprio in Australia nel 1978, una formazione importantissima della scena industriale noise, cioè gli SPK. Gli SPK che hanno avuto come, diciamo, creatore, iniziatore del progetto, Grimmy Revel alle percussioni, alle tastiere, e altri musicisti che si sono aggiunti nel corso degli anni, dal 1980, soprattutto quando il progetto si sposta diciamo in Gran Bretagna, e lì c'è l'album più importante di debutto, insomma ufficiale, anche se prima giravano già autoproduzioni e cassette degli SPK, Information Overload Unit. Poi successivamente ci sono stati ovviamente dei cambiamenti nella formazione, scazzi non scazzi fra i musicisti, fino però al 1988, dove il gruppo poi si è sciolto. È uscito soltanto, diciamo, postuma nel 2008, dopo 20 anni, una sorta di raccolta di vecchi materiali, anche cose inedite degli SPK, ma la cosa che comunque ritengo estremamente valida, interessante, assolutamente dignitosa, è il fatto che probabilmente il progetto che aveva già dato ha mollato la presa e non è andato avanti, cercando insomma di non riprodurre progetti e album che ormai non dicevano più nulla. Al momento in cui hanno visto probabilmente che la linfa vitale, la progettualità, l'humus da cui nasceva il progetto industriale SPK era ormai esaurito, hanno chiuso i battenti e hanno fatto bene. Noi andiamo a pescare nel 1983 un album, Auto da Fè, dove è presente moltissimi echi, soprattutto nei confronti dei Cabaret Voltaire, che era una delle formazioni a cui si riferivano molto gli SPK, e ascolteremo due tracce estremamente graffianti, dure, metalliche, industriali in tutti i sensi, che rappresentano proprio anche la violenza in un certo senso e anche la rabbia rappresentata dalla musica industriale, dunque dalla fabbrica materiale, esistenziale, che diventa materia sonora. Andiamoci dunque a sentire SPK in apertura per Fabbriche Sonore di stasera, 451 Intersezioni. L'album è Auto da Fè, 1983. Buon ascolto. Ascolto. moto dei boss. New Bangkok, we will win. Insomma, una deflagrazione abbastanza potente questa di apertura del programma di stasera, sicuramente soprattutto il finale con questo colpo tonfo e secco dopo questo martellamento ossessivo e anche piuttosto violento del progetto, ricordiamo ancora, dell'SPK, progetto industrial australiano. È assolutamente interessante anche da riscoprire nei primi album, che erano veramente molto molto ben costruiti. L'aspetto noise poi era estremamente anche avanzato, perché nel corso poi degli anni, insomma soprattutto negli anni zero, quando è nato insomma tutto il fenomeno neorumorista americano, Wolf Eyes e compagnia bella, molte cose fatte anche in maniera eccessiva, in maniera appunto rumorista al massimo livello, portato all'estremizzazione, presente anche nei lavori di SPK, devo dire, poi sono stati anche ripresi e portati avanti su un piano più digitale, ma molto vicino anche appunto da tutta la scena neorumorista rumorista soprattutto newyorkese degli anni zero, e è ancora tuttora in vigore, diciamo, è ancora nella linea del tempo attuale. CPK, ricordiamo ancora, formazione che poi ha chiuso, diciamo, nel corso di 10 anni, ha portato avanti il suo percorso. Nell'88 il progetto ha chiuso i battenti ed è uscita soltanto una compilazione con dei materiali anche inediti nel 2008. E continuando il nostro percorso sonoro dentro la marzialità dell'industrial e la violenza e anche diciamo il graffiare continuo e lavorare sottocutaneo del noise, andiamo a pescare, dato che ci piace pescare in questa fase industriale e in questo momento invernale, dato che non si pesca praticamente mai, almeno noi non peschiamo, ecco, non abbiamo questo particolare hobby e non ci interessa assolutamente, ma mi piace utilizzarlo per andare a presentare i brani, devo dire, senza neanche rendermene conto, lo sto utilizzando spesso nelle puntate della stagione in corso 2015-2016. Bene, andiamo a trovare, usiamo un altro termine per non essere troppo ridondanti, il progetto invece che adesso non vi devasterà, nel senso che andremo dentro una tossera invece più tribale, per certi versi anche più vicina a certe atmosfere del kraut rock. Vi direte, come kraut rock dentro una dimensione prettamente di fabbriche sonore, dunque industriale, noise? No, l'ho detto anche all'inizio, ci sarà anche delle atmosfere, dei linguaggi ambientali, dei linguaggi tribali dentro questa formazione, che invece è una formazione, un progetto nato negli anni 90, molto interessante, Nepal, formazione nata nel 1991 in terra svedese. Dunque ci spostiamo dall'Australia alla Svezia, e questa è una formazione che va proprio a riprendere lo stesso nome, è in realtà un brano della famosissima formazione krautrock degli Amundul, essendo il one man band, l'unico personaggio che porta avanti questo progetto ancora adesso, perché è uscito proprio un album nel 2015. Grande appassionato del krautrock, come molto appassionato anche dell'ambient e della musica industriale, si tratta di Lina Der Baby Doll, che in realtà è uno pseudonimo, il personaggio è Peter Anderson, che oltretutto è il cofondatore insieme a Kai Marnik della Cold Meat Industry, che è appunto una delle etichette più interessanti, tra le più interessanti della scena svedese, che riporta insomma negli anni ancora adesso, ma soprattutto negli anni 90, ha portato avanti ancora tutta la scena industriale, un suono che cercava di recuperare certe ancestrali ricordi dell'industrial degli anni 70-80, e questo progetto appunto Deutsche Metal Nepal porta avanti questo percorso ormai da 25 anni. E l'album che abbiamo voluto presentare è Benevolence, uscito proprio per la stessa etichetta cofondata da Peter Anderson nel 1993, ed è il secondo album. L'album d'esordio del progetto Deutsche Nepal è Deflagration of Hell, uscito nel 91, e ancora adesso, come dicevo, Deutsche Nepal continua la sua produzione, anche se gli ultimi lavori sono meno interessanti. Le cose, diciamo, industrial, noise, ma soprattutto tribali, ambient, più innovativi sono stati sicuramente i primi album dei primi anni 90, e proprio per questo andiamo a presentare dentro il nostro percorso di stasera questo brano che ha molti echi tribali con forti accenni anche a melodie medio orientali, e in alcuni momenti addirittura si sente un eco addirittura di una canzoncina popolare cinese, proprio a mischiare l'aspetto quasi appunto etnico, ma questa era una caratteristica anche presente in molti progetti industria degli anni 70-80 in particolar modo. Andiamoci dunque a calare dentro un'ambientazione sonora e un percorso e una sorta di ossessività tribalista percussiva di questo brano splendido di Deutsche Nepal. Vi consiglio veramente questo album, perché è molto molto bello, variegato ed è sicuramente originale nella sua costruzione industrial. Benevolence, lo ricordo ancora, Cold Meat Industry 1993. Andiamocela a sentire dunque, e dunque caliamoci dentro l'atmosfera e tribale e industriale di Deutsch Nepal. Thank you. siamo rientrati in diretta, dunque immersi dentro questi echi amunduliani, in parte krautrockiani e ovviamente legate alla dimensione tribale che è presentissima con queste percussioni ossessive, ipnotiche, ma anche questi inserimenti metallici, metalloidi, che come ho presentato anche, abbiamo presentato insieme, ringrazio anche Lorenzo Albano, che spesso non viene nominato ma che è l'altro, il terzo presente del progetto del Network 451, che cura tutta la parte tecnica, soprattutto digitale, e dunque la nostra pagina Facebook di presentazione che utilizziamo sempre nella giornata stessa poco prima dell'apertura delle danze sonore, sia di 451 frammenti sonori il mercoledì, sia di 451 intersezione del giovedì. Lorenzo Albano ha curato appunto la presentazione, e nella presentazione della trasmissione di stasera, denominata Fabbriche Sonore, c'era appunto questa idea, questo gioco di impianti sottocutanei, metalloidi e ovviamente in parte noise, ma anche, come abbiamo ascoltato in Deutsche Nepal, questi echi krautrockiani, amunduli in particolare, ma anche dimensioni ambientali e tribaliste dentro il percorso di stasera, che d'altronde era anche una caratteristica dell'industria anche alle origini, non soltanto esplicitato negli anni 90 col progetto Deutsche Nepal. E rimanendo sempre nella terra svedese e nell'etichetta in particolare che avevamo già enunciato, che appunto era la produzione anche di questo album che vi ricordo è Benevolence del 93, il cofondatore di questa etichetta Cold Meat Industry svedese era appunto Roger Karmanik, che è l'altro personaggio che andremo adesso ad ascoltare col suo progetto collaterale, nato anch'esso negli anni 90, Brighter Death Now, che si differenzia ovviamente anche dal punto di vista stilistico e compositivo e sonoro dal progetto precedente appena ascoltato di Deutsche Nepal, per la mancanza di echi krautrock, di cosmice music e tribali, mentre l'aspetto industrial è molto più potente, molto più marziale, molto più inquietante e in parte violento, ma anche per l'aspetto più legato al power electronics e della connotazione anche più dark ambient dentro le musiche di Brighter Death Now. Brighter Death Now, che appunto si sviluppa come progetto quasi parallelamente al progetto Deutsche Nepal, in realtà parte prima del progetto Deutsche Nepal, nel 1989 il suo primo album è Temptation, e poi nel corso degli anni 90 continua la sua produzione, in particolar modo con l'etichetta cofondata con il personaggio One Man Band di Deutsche Nepal dal 1990 fino anch'esso ai giorni nostri. Ma anche qui troviamo le cose più interessanti nei primi anni 90, nelle prime produzioni, in particolare uno dei dischi più interessanti, anche valutati molto positivamente dagli ascoltatori e dalla critica, è Inner War, uscito nel 1996, e proprio questo andiamo ad ascoltare con due tracce che sono emblematiche dello stile e del suono della fabbrica sonora industriale rappresentata dal progetto di Brighter Death Now. Andiamocelo dunque subito ad ascoltare, cambiamo pagina, ma rimaniamo sempre dentro la fabbrica sonora. Buon ascolto. I've got to stay calm, I've got to keep my E siamo rientrati in diretta con questo salto nel buio, un crollo verticale di questo brano splendido. Ricordiamo ancora la formazione, progetto che poi abbiamo ascoltato, il doppio progetto dei due cofondatori dell'etichetta importantissima della scena svedese, della scena svedese Cold Meat Industry. Dunque, prima abbiamo assaggiato le atmosfere di Deutsche Nepal, per poi passare invece all'aspetto più marziale, industriale, Power Electronics dei Brider Net Death Now, dell'altro cofondatore di questa etichetta. E dunque importante anche questo elemento, diciamo, di conoscenza del terreno svedese, che andiamo ancora ad esplorare, perché rimaniamo ancora in terra svedese e andiamo a ritrovare, dato che l'abbiamo inserito qualche mese fa in una vecchia puntata di 451 Intersezione, su ben altre atmosfere, ben altre diciamo tematiche, Raison d'être, l'andiamo a ritrovare. Anche questo è un altro progetto svedese, in realtà appunto il personaggio si chiama Peter Anderson, è un progetto che si muove ovviamente sempre sul terreno industriale, ma con delle caratteristiche più ambientali, con elementi più legate alla drum music, a dei suoni addirittura legate al soundscapes, dunque anche registrazioni sonore esterne, mischiate, diciamo, dentro le coloriture, il linguaggio più squisitamente industriale e con elementi anche più legate all'ambiente e a utilizzazioni di sintetizzatori molto interessanti, che ricordano anche certe sonorità e certi synth anche anni 70, ma riportate in una connotazione anni 90, perché anche qui parliamo del periodo anni 90, in una sorta soprattutto di sentiero svedese che ha percorso questa etichetta, ma anche altre etichette, altri progetti, una scena svedese che cercava di riportare, di mixare tutti questi elementi tra l'industrial, il noise, il power electronics e ambient, dark ambient, per arrivare anche a elementi della cosmice. Dunque un esperimento che ha attraversato soprattutto la Svezia negli anni 90 e che andiamo proprio a ritrovare anche nel progetto Raison d'être, che è nato ufficialmente col primo album nel 92, uscito Après nous la déluge. Il mio francese è terrificante, dunque mi dovete assolutamente scusare. E poi ha continuato sempre negli anni 90 per arrivare al disco che andiamo a ascoltare stasera, In Sadness, Silence and Solitude, uscito nel 1997. Anche questo progetto, anche questo autore continua a portare avanti le sue produzioni. Non a caso avevamo sentito proprio l'ultimo disco uscito con i Traum per l'Essence Music nel 2015, nella vecchia puntata dell'anno scorso di 451 Intersezioni, e ora lo ritroviamo da solo, il progetto Raison d'être, con questo splendido album. E in particolar modo il brano che abbiamo scelto è interessante perché ha un'evoluzione, una terminazione abbastanza sorprendente. Dopo un percorso, un flusso dronico, un'ambientazione particolare, industriale appunto e ambientale, a un certo punto si apre e sorprende sicuramente, creando un'atmosfera che all'inizio può sicuramente un po' deragliare, un po' stordire, poi in realtà, entrando dentro l'idea del brano, ci si immerge totalmente in maniera splendida. Andiamo dunque ad ascoltare Raison d'être e buon ascolto.